vida brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chi mi conosce sa quanto io sia alieno e assolutamente indenne da ogni tentativo di fare retorica su grandi fasti del passato. Ma oggi voglio parlarvi di guerra. Voglio parlarvi, per l'esattezza, della prima guerra mondiale, della grande guerra. Ve ne parlo per vari motivi, primo dei quali domani 4 novembre si ricordano i 90 anni dall'uscita dell'Italia da quel conflitto che costò un numero esagerato, probabilmente, anzi sicuramente, di vittime umane. Ve ne parlo anche perché c'è una polemica in corso molto viva sui giornali. Questa ricorrenza in modo particolare divide le opinioni di molti italiani tra chi considera una data importante da ricordare, sinonimo di unità nazionale, chi dice che in realtà fu una grande, un'enorme strage, un macello indicibile, quindi non vanno ricordate le date legate alle guerre. Di questo, in questo momento, non voglio fare assolutamente testo di questa trasmissione, ma voglio raccontarvi quella che è la mia esperienza personale di questa guerra. Avendo io 54 anni, sono ancora uno dei nipoti viventi di coloro che l'hanno fatta veramente. L'ultimo reduce della Prima Guerra Mondiale è morto a 109 anni in Calabria, Francesco Domenico Chiarello, l'ultimo cavaliere di Vittorio Veneto. Nessuno più che ha fatto questa guerra oggi potrà raccontarvela. Ma noi, della nostra generazione, invece ne avevamo una coscienza diretta, un racconto continuo. I nostri nonni avevano fatto questa guerra. Mio nonno in particolare aveva fatto la Prima Guerra Mondiale, ma anche la Guerra d'Africa, la Seconda Guerra Mondiale. Ci chiamavano i nipotini, ci faceva vedere le ferite del nonno, a noi faceva orrore. E si apriva la camicia, mostrava lo squarcio di granata, un'altra scheggia che aveva ferito la tempia, e ci raccontava. Sul suo scrittoio aveva un tagliacarte di bronzo con una dedica fatta dai soldati della sua compagnia di cui era capitano, e noi bambini lo ascoltavamo come si ascolta una conchiglia per sentire il rumore della guerra, quasi potesse darcelo come una conchiglia dava il rumore del mare. E ci faceva racconti di una guerra strana. Sembrava impossibile che mio nonno, signore con le bretelle, che stava tutti i giorni nel suo studio a leggere libri, a scrivere, un intellettuale, un professore universitario, avesse fatto la guerra, avesse sparato, ucciso, assaltato la baionetta, visto negli occhi il nemico, visto le budella dei suoi compagni. Però lui raccontava sempre qualcosa di diverso, non parlava mai di morte, parlava di lunghe giornate interminabili nel fango, di attese in trincea. Diceva: non andavamo mai a fare i nostri bisogni, avevamo paura che ci cogliesse un bombardamento e morissimo con i calzoni calati sulla latrina. E quindi per questo lui giustificava le sue intemperanze intestinali con cui tartassava noi nipotini. Beh, questo è uno dei tanti racconti, probabilmente molti che mi ascolteranno avranno ancora nonni o memorie di nonni che hanno fatto questi racconti. Io in particolare ieri, scartabellando fra ricordi di famiglia, ho trovato anche una foto di mio nonno di quei tempi. È impressionante, l'ho messa in confronto sul mio profilo Facebook, potrete vederla assieme alla mia foto di me nel periodo del servizio militare, sono identiche. Quindi ho capito che è importante parlare dei ricordi dei nonni, perché noi siamo, visto che io sono identico a mio nonno, non l'avevo mai considerato, la trappola della morte dei nostri nonni che hanno fatto la guerra e sono sopravvissuti alla guerra. Probabilmente in noi hanno lasciato il seme della speranza che qualcuno potesse raccontare quello che loro raccontavano. Quindi questa mattina 800 24 00 24 parleremo della grande guerra. Signori ufficiali, in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Ufficiali in testa ai reparti, pronti per l'attacco! Salaia! Salaia! I più la conoscono probabilmente attraverso alcuni film, ve ne daremo qualche assaggio. Questo è Uomini contro, di Rosi, un film che negli anni 70 fece anche scalpore, fu soggetto di varie critiche. Era una visione abbastanza radicale, che vedeva una guerra fatta da poveri soldati proletari con ufficiali cattivi, sadici. In parte anche questo sarà stato un elemento della guerra, persone che avevano il sacro fremito della gloria sul campo di battaglia, altri contadini, poveracci, che andavano comunque a fare una guerra senza nemmeno capire cosa facessero. Come vogliamo raccontarla questa mattina la guerra? Avrei potuto chiamare degli storici, magari con pareri contrastanti, ma sono convinto che le letture storiche probabilmente non interessano tanto questa mattina quanto interessa il valore delle testimonianze. E scartabellando tra i miei amici, colui che è più vicino alle testimonianze concrete della Grande Guerra è Marco Pizzo. Marco, buongiorno. Buongiorno. Marco Pizzo, ve lo racconto, è il direttore del Museo Centrale del Risorgimento. È un amico mio che vive dentro il Vittoriano. Ha una sua finestrella proprio dietro il sedere del cavallo della grande statua equestre di Re Vittorio Emanuele e naturalmente vive a contatto diretto epidermico con tutti i ricordi della Grande Guerra, anche del Risorgimento, anche di ciò che venne dopo, ma in particolare ci fermiamo, Marco, a quelli che sono gli oggetti che raccontano questa guerra. Ecco, se tu potessi raccontarlo attraverso oggetti, quale sarebbe quello che la racconta meglio secondo te? L'oggetto per eccellenza, secondo me, è proprio il corpo del milite ignoto, che è conservato all'interno del Vittoriano e rappresenta in maniera simbolica quello che è stato la Grande Guerra, un sacrificio indistinto di centinaia di migliaia di persone, un corpo di cui non si sa il nome, è il simbolo di tutta l'Italia che in qualche maniera venne a far parte della Grande Guerra, venne a far parte proprio come un'amalgama informe all'interno delle trincee, dove si trovarono insieme per la prima volta siciliani, calabresi, trentini, che non si capivano spesso tra di loro, perché il loro linguaggio era il dialetto, e si trovavano invece a comunicare con l'italiano, che era invece un'altra lingua rispetto a loro. Quindi anche gli ordini venivano dati multilingue, multidialetto. C'erano dei traduttori di ordini. E alcuni comandi, come per esempio abbiamo sentito l'assalto Savoia, era qualche cosa che veniva compreso come simbolo dell'assalto. È un metalinguaggio, quindi, in tutto e per tutto. Il milite ignoto non a caso venne inumato il 4 novembre del 1921, perché rappresentava proprio l'ultimo atto della Prima Guerra Mondiale. Ecco, oggi nell'inserto satirico dell'Unità Stefano Disegni fa la sua solita vignetta e mette proprio al centro la sua vignetta il milite ignoto. Poi non riesce ad essere dissacratore come normalmente, evidentemente è qualcosa che va oltre la capacità di un comico di fare satira su tutto, un autore comico. E c'è il milite ignoto che parla ai due soldati in attesa che vengano a mettere la corona su di lui e dice: vaglio a dire a mia madre, una granata in faccia, mi sono rimaste solo le orecchie, in mezzo non c'era più niente. Come sai quanti, certi burini calabresi che per capirgli ci vuole l'interprete, un sardo arto un metro che in vita sua aveva visto solo le capre e doveva combattere per la patria, un veneto che piangeva sempre perché si era appena sposato e faceva vedere la foto a tutti, la moglie era proprio buona, e poi gli abruzzesi con la capoccia dura come il gran sasso, i toscani, i piemontesi, e poi un marchigiano che appena tre giravi te fregava, pure le mutande, tutti morti. Due giorni prima ci facevi una partitella a pallone. Rende bene il senso di ciò che potrebbe ipoteticamente dire il milite ignoto, questa varietà di persone e dialetti che mai si erano incontrati prima? No, rende benissimo, anche perché rende quello che in effetti fu la Prima Guerra Mondiale, cioè fu l'ultimo atto del Risorgimento nazionale. Finalmente c'era la patria unita nella trincea, in un luogo chiuso, costretto, e il milite ignoto è il simbolo proprio di questa Babele linguistica, e tanto più Babele quanto è indistinto il milite ignoto. Non si sa, non rappresenta. E poi no, ora. Potresti rompere un braccio o una gamba. E certo. Sì, sarebbe poco. Ti rimanderebbero a casa. Se la faccio io questa porca guerra, vacca, io la devi fare anche te. Guarda, tutti la devono fare la guerra. Tutti devono fare il sacro dovere. Sì, e te com'è che lo facevi il sacro dovere? Andando imboscato al distretto, no? Sì, e che sto fai io qua? Oh, volontario se sono venuto io, sa. E senti bene, bambino, con me il discorso patriottico lo devi lasciare proprio da parte, perché non funziona mica, capito? Tanto per cominciare, guarda, questa guerra non è mica la guerra mia. No. No. La mia guerra è contro i pescicani imboscati figli di una vacca. E quelli non stanno mica soltanto in Germania o in Austria, stanno dappertutto. E io, bambino mio, di morire per loro non ce l'ho mica tanta voglia, sai? E certo, la patria ha bisogno di opere, mica di morti. Quello che dico io. E io ho intenzione di fare grandi cose per la patria. Che mestiere fai, te? È il barbiere. Questa è un'altra lettura di Mario Monicelli, un film nel 59 vinse anche il Leone d'Oro al Festival del Cinema. Questo è un film che piacque, non fece polemiche, in cui Sordi e Gassman sono i due soldati di due parti diverse all'Italia. Nessuno di loro aveva voglia di fare il soldato, anzi Gassman all'inizio pagò Sordi 3 lire per evitare di fare il servizio, di fare la guerra, ma in realtà si trovarono insieme e uniti insieme poi in un atto di eroismo finale, d'orgoglio per Gassman e di vigliaccheria, di paura per Sordi, ma entrambi si fecero uccidere. Il senso di appartenenza in questo caso è molto più marcato di quello che si pensi. Cioè, nella Prima Guerra Mondiale combatterono dei militari non professionisti, ma proprio per questo era tanto più importante, perché riprendono quello che era il concetto della Guardia Nazionale istituita da Pio IX, in cui i cittadini diventavano i difensori della patria. Durante la Prima Guerra Mondiale venne sentito questo sentimento, anche in maniera più o meno indistinta, di essere chiamati a difendere la patria. Non a caso la Prima Guerra Mondiale è vista la fine del Risorgimento, ma anche è vista proprio come il momento in cui si crea un simbolo di identità patriottica. Senti Marco, noi oggi abbiamo come la percezione che le forze armate siano qualcosa di staccato dai cittadini, ma allora mi sembra che fossero la stessa cosa. L'esercito non era percepito come qualcosa di diverso da coloro che ne facessero parte, facevano parte? No, anzi era sentito proprio come un senso dell'Italia laica. Cioè, l'esercito era un'istituzione in cui i cittadini si trovavano interloquiti, anche perché la leva era lunga. In qualche maniera i ricordi bellici erano ricordi formativi delle persone. Naturalmente c'era la gerarchia militare, che era un'elite, ma era un'elite come era quella politica, come erano tante altre cose. Ma c'era proprio il senso di vedere l'esercito e i militari come coetanei, come facenti parte di un unico anello sociale. E non a caso tanti cimeli che rimangono all'interno delle singole famiglie sono dei cimeli bellici, perché rappresentano proprio i momenti di formazione delle singole persone. C'era tutto un bricolage di trincea, tu ne avrai un'infinità di questi oggetti. Ho citato il tagliacarte, ma nei momenti di pausa o di attesa o di minor pericolo si costruiva di tutto in trincea. C'è stata una bella mostra anni fa a Treviso che si chiamava La guerra in salotto, che metteva in esposizione quelli che furono proprio fatti i cimeli di collage, un pezzo di bomba, il filo spinato, insieme all'orologio, alla statuetta. Era proprio un assemblaggio più che altro di tipo affettivo dei cimeli della Grande Guerra, che non a caso venivano indossati in anelli, braccialetti, ciondoli, come dicevi te prima, l'apribusta, perché tutto rientrava a far parte di un utilizzo quotidiano, proprio come l'esperienza della guerra era la quotidianità. E questo aiutava a elaborare il grosso e indubbio sacrificio di vite umane che era costata, perché la Prima Guerra Mondiale avrà lasciato lutti e vedovanze in tutto il paese, immagino, visto il numero considerevole di morti. Solo in Italia ci furono circa 650.000 morti. Di questi morti, più del 65% apparteneva alla popolazione rurale. Quindi significava che nelle campagne c'era una stragrande maggioranza di vedove, di orfani, di madri senza figli. E il trasporto del milite ignoto indica tutto quanto questo. Venne fatto addirittura un convoglio, un treno, che partì da Aquileia e arrivò a Roma, e questo viaggio durò 3 giorni. Durante il viaggio, tutto lungo la ferrovia, c'era una enorme massa di persone inginocchiate con fiori che vedevano nel milite ignoto il fratello, il marito, il defunto, proprio perché quella che Benedetto XV definì l'inutile strage della guerra era stata comunque un qualche cosa che aveva fatto radicalmente mutare la popolazione italiana. Io sono partito dai ricordi personali di mio nonno che mi raccontava la guerra, potrei aggiungerne altri, ricordo contadini, ho vissuto in campagna fino a 15 anni, quindi vedere contadini che andavano al campo con la falce, con i buoi al seguito, la mia è ancora una visione molto arcaica della campagna, poi ti raccontavano storie di guerra. E capivi che era una guerra terribile, era una guerra, da una parte si faceva con strumenti usati per la prima volta. Due giorni fa, evacuare un'intera palazzina con 6 famiglie, perché un signore ha provato a disinnescare una bomba della Prima Guerra Mondiale, conteneva del gas velenoso e quindi ha rischiato di intossicare non so quante persone. Però poi c'erano le mazze ferrate, nel tuo museo vedo mazze chiodate, Asiago, nel museo appunto, fatto dei cimeli presi mesi dalla zona del fronte di guerra, ci sono mazze ferrate, oggetti medievali. Fu una guerra di grandi contrasti anche dal punto di vista degli oggetti per combatterla. Fu proprio una linea di separazione tra la medievalità e la contemporaneità. Da una parte abbiamo il gas, quindi la morte indistinta. Non c'è contatto, si muore e non si sa perché. Dall'altra invece c'è l'utilizzo di mezzi, come le mazze ferrate, le mazze chiodate, che invece erano il massimo della fisicità, era quasi un mattatoio umano, che fa sorgere anche in questo caso tutta una simbologia particolare. L'uso dei gas, che venne fatto per la prima volta a Ypres, in Belgio, provocando una serie di morti, fece nascere l'immagine dell'angelo di Ypres. Un angelo consolatore che andava vicino ai militari e li accompagnava nel loro viaggio in cielo. Questo è proprio il mix che si crea sulla Grande Guerra. Un immaginario veramente medievale, arcaico, è l'inizio delle armi di distruzione di massa. La contemporaneità inizia con i gas della Prima Guerra Mondiale. Lina, buongiorno. Lei ha un papà dei ragazzi del 99, della generazione... Il mio papà era del 99, sì. L'ultima classe richiamata a combattere. Prego? L'ultima classe di leva chiamata a combattere. L'ultima classe di leva che era sul Piave, poi è stato fino in Trentino, e mi raccontava che gli avevano rifinato, non avevano più divise, e gli hanno fatto indossare le divise della guerra dell'Ottocento, del Risorgimento ancora, perché non avevano divise da mettere. E poi l'ho portato a vedere Uomini contro, guardi, si era messo a piangere perché si ritrovava perfettamente in tutte queste situazioni. Ecco, lei a casa ha oggetti che le ricordavano la guerra? Le faccia vedere suo padre qualcosa? Ma cioè, ho lì un cappello da alpino, poi no, altre cose no. E poi un episodio che mi è rimasto impresso, che quando abbiamo fatto la marcia andando verso il Trentino, avevano trovato delle donne inviperite che ammazzavano i tedeschi a zoccolate, e la cosa aveva colpito. E un'altra, che erano arrivati ste ragazzine affamati a Vignola, c'era una forneria aperta col pane fresco, si sono buttati a mangiare il pane e un 20% sono morti di congestione perché avevano mangiato troppo. Non erano abituati a mangiare. Che imploravano la mamma e che piangevano e diceva l'amore patrio non c'era proprio. Francesco, buongiorno, grazie Lina. Francesco, buongiorno. Sì, pronto? Anche suo nonno era un ragazzo del 99. Sì, mio nonno era un ragazzo del 99 e nei racconti che ci faceva nelle serate d'inverno ci raccontava che lui come aspetto fisico aveva il naso rosso e le guance rosse, no? E pensavano che fosse un ubriacone che bevesse parecchio vino. Mentre lui era stemio e scambiava le sigarette giornaliere con dava il vino al posto delle sigarette, lui fumava molto. Pronto? Sì, sì, l'ascolto, prego, sì. Non la voglio interrompere. E poi ci raccontava, lui era in artiglieria, dei famosi tre colpi dove si è salvato la vita più di qualche volta, nel senso che l'artiglieria nemica sparava, il primo colpo magari si fermava un centinaio di metri prima, il secondo andava avanti qualcosina più e al terzo si buttavano fuori perché dicevano con il terzo ci metta. Faceva centro, erano colpi di aggiustamento. Esatto. Grazie. Marco Pizzo, soltanto velocemente, visto che siamo vicino a dover lasciare la linea alle notizie di borsa, questa storia mi ha colpito le divise ancora precedenti alla guerra mondiale, è possibile? Certo, c'era proprio un assemblaggio delle divise, tant'è che spesso nelle trincee non era possibile distinguere un'arma dall'altra perché utilizzavano quello che capitava, e se trovavano delle divise dell'80, cioè del 1880 o del 1900, veniva tutto quanto utilizzato, era quanto di più variopinto e disomogeneo che si potesse pensare l'esercito italiano. Melog 2.0. Iacovacci Oreste, Orsa di Prevegio, Iacomazzi Hernani, Orsa di Prevegio, Iacovacci Oreste. Carissimi genitori, rispondo alla vostra lettera ricevuta oggi stesso, dove godo molto piacere nel sentire che voi state bene, come così vi posso assicurare di me. Ora vi dirò che il 7 abbiamo spostati e ci hanno mandati ancora più lontani dal pericolo di dove eravamo prima, e siamo ancora in riposo perché il battaglione è infetto. Si dice che sia stata l'acqua del risonzo, perché dentro ci sono molti cadaveri, parecchi cavalli morti, tutti gli scoli di quegli ospedali di campo vanno in quel fiume. Cari genitori, io vi dirò che in combattimento mi sono fatto un gran coraggio, e non pensavo neanche che io fossi in pericolo di morire. .800 24 0024, il numero verde per chiamarci. Oggi stiamo parlando dei ricordi dei nonni legati alla Prima Guerra Mondiale. Lo faccio con Marco Pizzo in studio, che è direttore del Museo Centrale del Risorgimento, vive dentro il Vittoriano, ha contatto diretto con i residui, gli oggetti caricati di ricordo che ancora ci danno una testimonianza di quelli che furono quei momenti terribili, momenti tragici, momenti legati alla morte, legati allo smarrimento, al lutto, però un grande senso nazionale, una grande unità, un grande sentimento di esserci comunque tutti. La guerra non è una bella cosa, non è una cosa da auspicare, a me la guerra non suscita nessun senso romantico, ma trovo che sia giusto avere rispetto del ricordo, chi ancora ha la fortuna di avere i ricordi. Marco Pizzo, rispetto a queste lettere dei soldati dal fronte, tu ne avrai valigie intere, immagino. La scrittura di lettere dal fronte è proprio un genere letterario, cioè si scrisse per la prima volta tantissimo, e questa scrittura in qualche maniera servì a elaborare un nuovo italiano, pieno di gergalismo. Molti erano analfabeti comunque, i soldati. C'erano gli scrittori di trincea, la cui attività era proprio quella di scrivere per gli altri le lettere, e c'erano queste cartoline, la cartolina in franchigia che non pagava il bollo postale e serviva proprio a comunicare le notizie ai familiari. In più, chi non aveva familiari, c'erano le scuole femminili che si organizzavano e scrivevano in maniera indistinta a chi non aveva una corrispondenza femminile al fronte. Ed è proprio dalle scritture di trincea che noi troviamo quella che è la sensazione della guerra. Infatti nel film di Monicelli, Alberto Sordi riceve delle lettere non scritte da suo parente, scritte dalle signorine di buona famiglia che avevano questo compito di confortare i soldati. E davano, cosa fondamentale, il cosiddetto pacco dono, cioè davano dei generi di prima necessità, sigari, sigarette, indumenti, e quindi tanto più si scriveva, tanto più si avevano generi di questo genere. Abbiamo al telefono Maria Antonietta. Buongiorno Maria Antonietta. Buongiorno. Dunque, mia nonna era di Asiago e raccontava sempre che quando ci fu la rotta sull'Altopiano, lei insieme a sue due cognate furono messe sulle ricordo strade. Soltanto, scusi Maria Antonietta, che il film Uomini Contro è in parte tratto, liberamente tratto, dal romanzo Un anno sull'Altopiano di Emilio Lussu, che è il libro che racconta meglio ciò che accadde in quell'altipiano di Asiago. Sì, ma praticamente era, io volevo mettere il mio ricordo personale, che praticamente metteva in luce l'eroismo non solo degli uomini ma anche delle donne, della forza delle donne, che appunto mia nonna insieme a due cognate portarono in Lombardia ben loro 30 figli tra le tre donne, con una forza e una... 10 figli a testa di media? 10 figli a testa di media? Sì, avevano in media 10 figli, mia nonna ne aveva 12. Quindi mia madre in particolare si addormentò sotto un sedile della tradotta e nella conta che continuamente facevano non la trovavano. Quindi con questa paura di aver perso una figlia durante questo trasbordo delle varie tradotte. Quindi erano dei momenti di queste... Io volevo proprio ricordare l'intervento della donna, che anche se non era così appariscente come quella ovviamente degli uomini, però fu di grande forza e di grande unità, per quindi a gruppi di famiglie a stare uniti e perseverare anche per parecchi anni, fin quando l'altopiano non fu ripreso e potessero gli uomini prima ricostruire, perché come ben sappiamo Asiago fu rasa completamente al suolo, rimase in piedi soltanto una statua, come si vedono in certe cartoline d'epoca. Era il ricordo di questa mia nonna con queste tre donne e con questa schiera di bambini. Per voi siete in un luogo che geograficamente passeranno ma veramente tanti anni prima che possano essere cancellate anche le tracce residue. Mi ha scritto adesso un altro ascoltatore su Facebook che durante le gite sulle Dolomiti ancora i bambini fanno a gara chi trova più schegge di granata, cioè sono delle piccole palline di piombo di un centimetro di diametro che appunto riempiano le granate perché facessero il più danno possibile, che i ragazzini collezionano come figurine. Marco Pizzo, su questa vicenda delle donne e la guerra hai testimonianze? È un aspetto molto interessante questo, nel senso che per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale c'è una presenza, una partecipazione femminile femminile alla guerra, non come combattenti e non solo nell'approvvigionamento o nelle ditte che precedentemente facevano mezzi di sussistenza, dalle armi alle acciaierie, eccetera, ma c'erano nella zona di Asiago, nelle montagne, le cosiddette intrecciatrici, cioè erano delle donne che preparavano prima del filo spinato una sorta di reticolati intrecciati di juta per non permettere al nemico di vedere quello che succedeva dentro la trincea avversaria. Quindi facevano delle tendine per non far vedere cosa accadeva nella trincea. E le facevano solo ragazze che venivano coinvolte e quindi paradossalmente creano un momento di emancipazione femminile enorme. Servivano, venivano utilizzate, loro acquistano consapevolezza del loro ruolo e la guerra veramente diventa un grande fenomeno condiviso da tutti. Penso che fosse molto sentito anche il senso della lontananza delle famiglie, il desiderio delle mogli, delle fidanzate. Le lettere d'amore avranno sicuramente raccontato anche queste vicende legate più alla mancanza di un contatto proprio dei soldati con presenze femminili. Le lettere spedite dai soldati del fronte, spesso e ancor più quelle dei soldati in prigionia, avevano per esempio una scrittura con esplicite allusioni sessuali, amorose e sentimentali. Beh, è normale. Che è una eccentricità rispetto alla scrittura di genere, cioè alla scrittura della lettera. Proprio perché è una scrittura per la prima volta senza diaframmi letterari. Si scrive quello che si sente e lo si dice così come lo si sente. È una innovazione letteraria. Anche perché è una guerra veramente fatta di contadini, non di militari professionisti. E il contadino dopo un po' sente il richiamo caldo della femmina che c'ha lontano. È normale, fisiologico. Non si paluda dietro visioni letterarie, eroiche o idealistiche. Franco, buongiorno. Sì, pronto? Buongiorno, la sto ascoltando. Niente, un episodio del nonno di mia moglie, il quale per salvarsi da un attacco di gas, mi sembra, scusi per la voce, mise la faccia in una buca dove aveva urinato per salvarsi, perché gli avevano detto che era questo, senza maschera, uno dei pochi, delle poche salvezze che poteva avere, e si è salvato unico del suo piccolo battaglione. Ah, si è salvato per questo motivo? Per questo motivo, gliel'avevano detto, guarda che l'ultima chance che hai è urinare in una buca quando senti il gas, e metterci dentro la faccia, non respirare, praticamente era come un, diciamo, qualcosa che non faceva venire a contatto del gas la pelle, e lui si era salvato solo per quel motivo lì. Marco Pizzo, ti risulta che esista questo rimedio estremo contro i gas di fare la pipì in una buca e metterci la faccia? È una forma primitiva proprio di coibentazione. Il gas doveva venire a contatto con la pelle, tant'è che le maschere a gas non erano nient'altro che dei filtri, e quindi comunque l'urina è un coibente e comunque era un deterrente rispetto a questo. Quindi necessitavano fatto virtù, ha sentito Franco, quindi è qualcosa che realmente storicamente esiste. È una cosa che è rimasta nella tradizione della famiglia, praticamente, scusate della voce, praticamente questo si era salvato. Naturalmente per tutta la vita ne aveva risentito i polmoni, anche perché il gas persiste nell'aria, c'è il passaggio magari del vento ed è quello che salva. In realtà il gas è così potente, il gas soprattutto l'iprite, e che uno muore non perché inala il gas, ma perché forma delle bolle nella gola che lo soffocano. E è una cosa bruttissima l'iprite. E allora è una cosa che è rimasta, diciamo, nel collettivo. Io penso che il nostro ascoltatore, come succede anche a me, non poteva fare a meno che notare lo stupore di un nonno normalmente e tranquillamente collocato nella vita familiare, nella vita pubblica, nella vita del paese, della città, del luogo in cui si viveva, che avesse fatto queste esperienze che sembravano, almeno a noi bambini, così fuori e lontane dal mondo. Io mi faceva molto scrupolo di vedere un morto, ma invece qua ci ho dormito 3 giorni tra i cadaveri che puzzano. E nel fare l'avanzata, quando si gettavamo a terra, non avendo il tempo di fare la trincea, si nascondevamo di dietro i cadaveri, mettendoli uno sopra l'altro. E poi il giorno 26 luglio abbiamo salito in cima del monte e abbiamo dato 3 assalti alla baonetta e li abbiamo fatti slogare dalle trincee. Se avessi veduto i soldati austriaci morti, ce n'era uno in ginocchio nel fare l'assalto, ci siamo passati da sopra e ce n'era che facevano l'ultimo sospiro. Vi dirò che ci penso più adesso che quando sei in combattimento. Potete immaginare che cuore ha quando uno si trova in quei punti. Vi farete sapere se la terra è venuta bene a lavorarla. Voglio sapere se il tormentone si è fatto bello, voglio sapere quando 1000 libri di fieno avrete sul vaglio. Tanti saluti alla Giovanna. Il soldato contadino racconta episodi terrificanti di cadaveri usati come baluardo al fuoco nemico, poi alla fine si preoccupa di come è andato raccolto e come procede il lavoro, dove la vita continua. Melog 2.0. Si davano dei liquori che io non bevevo mai, che quando si beveva quella roba lì non si capiva più niente, si dava l'assalto e si moriva così. E c'erano quelli che scappavano, molti non reggevano, erano come diventati pazzi, correvano allontanandosi dalla prima linea. Il primo assalto alla baionetta che abbiamo fatto mi pare una quindicina di prigionieri che si erano arresi. Pure loro combattevano come combattevamo noi, senza nessun motivo, senza nessuna cosa. Marco Pizzo in studio, direttore del Museo Centrale del Risorgimento. Quello che abbiamo sentito era Carlo Orelli, che ora è morto, un reduce della Prima Guerra Mondiale. Ricordo che l'ultimo reduce è morto proprio qualche giorno fa, era un signore calabrese, aveva 109 anni. Nessuno può più essere vivo di coloro che hanno fatto questa guerra, quindi una ragione in più per andare a scandagliare, organizzare i ricordi dei nostri nonni, di quelli che l'hanno fatta veramente, come ce l'hanno raccontata. Io vedo che anche su Facebook, luogo estremamente moderno, contemporaneo, apparentemente scevro da tutti i possibili sentimentalismi legati ai ritordi, legati alla sottile pericolo di sembrare retorici, è pieno di persone che mi stanno raccontando ricordi dei loro nonni. In particolare un signore mi scrive: ma non parli della fame, della miseria, della sofferenza. Ecco, già nel ricordo di questo reduce si parla di questo cognac, sembra quasi una droga data per andare all'assalto senza rendersene conto. C'era questo senso di necessaria inconsapevolezza di andare a morire. È stata una guerra massacrante. Nel film di Rosi si vedono questi assalti alla baionetta contro una mitragliatrice in cui muoiono tutti perché non si può arrivare a spugnare quella piccola collina. Fu una guerra che causò vittime e fu una strage immane. Ma l'aspetto che emerge, mi pare più singolare, è proprio questi nuovi strumenti per fare storiografia. Dalle testimonianze che vengono fuori dei reduci o dei nipoti, dei figli, viene fuori quello che una storica del Medioevo, Chiara Frugaoni, ha definito gli archivi biologici. Noi stiamo perdendo oggi queste testimonianze, non ci sono più reduci della Grande Guerra. Non abbiamo più quindi archivi, cioè persone biologiche, che ci parlano delle loro esperienze, della loro realtà. Io, vedendo prima la somiglianza estrema fra la foto di mio nonno che ho trovato ieri sera e la mia foto, mi accorgo di essere io la trappola per la morte che aveva preparato mio nonno, probabilmente sapendo che avrebbe avuto un nipote che un domani avrebbe raccontato la sua storia ad altre persone. Quindi d'ora in poi gli ascoltatori che stanno per intervenire si rendano conto che sono memorie biologiche di un ricordo che altrimenti scomparirebbe. Elisabetta, buongiorno. Buongiorno. Si sente una memoria biologica lei in questo momento? No, io una memoria scritta. Ho un diario di 2 anni, dal 1916 al 1918, di mio nonno, che poi è morto gli ultimi giorni perché, essendo un portamine, è stato colpito, e poi questo diario è stato recapitato da un cappellano. È comunque un diario dove viene raccontato tutto quello che avviene e dove ci sono anche delle cose molto dolci. Ad esempio, una notte di Natale, durante una tregua, i nostri soldati con i soldati austriaci hanno fatto una tregua per fare una polenta insieme. E questa è una cosa che io trovo umana in tutte le cose brutte che poi vengono raccontate. Marco Pizzo, nel film Uomini Conto, a un certo punto Gian Maria Volonté dice, e viene per questo ucciso alle spalle dai suoi stessi commilitoni che lo spingevano all'assalto, questa è una guerra di morti di fame contro morti di fame. Ti risultano episodi analogi a quelli raccontato dalla signora, di questa sorta di temporaneo affratellamento tra nemici? Sì, c'è la notte di Natale del 15 che venne raccontata proprio come un momento di sospensione delle ostilità, e proprio questa sospensione delle ostilità venne tanto più osteggiata successivamente, perché si era visto che gli eserciti in quel momento erano molto più vicini, perché erano contadini con contadini. Il contadino austriaco non era diverso dal contadino siciliano, portava la sua famiglia, le sue testimonianze, e quindi venivano proibiti proprio questi momenti di affratellamento con... Perché si dimenticavano i presupposti teorici per cui erano nemici. In realtà non avevano nessun motivo fisico per sentirsi nemici. Probabilmente era quello il motivo. Certo, proprio perché si perdeva il senso di essere soldato e si ritornava a quella che era l'antica professione. Nel Uomini Contro, nell'altra testimonianza, abbiamo sentito proprio quelli che sono i disertori. C'è tutto un capitolo dei tribunali di guerra, e la diserzione fu un'altra grande... La decimazione terrificante, c'è un episodio terrificante in cui questi soldati fucilati, cioè non abbiamo fatto niente, ma andavano fucilati 1 su 10 per dare esempio agli altri che non bisognava essere vigliacchi nei confronti del nemico. Era il coraggio che mancava, ma il coraggio in confronto a quella che uscire dalla trincea spesso significava morte certa. E quindi proprio questo senso di morte certa dall'uscita dalla trincea è il senso proprio di che aleggia nelle trincee della Prima Guerra Mondiale. Silvana, buongiorno. Buongiorno. Io ho avuto la fortuna di avere un nonno del 99 e uno zio del 98 e vivevamo insieme a loro. E alla sera, quando soprattutto d'inverno eravamo piccoli, ci allietavano con le loro storie, che per noi erano film più che storie veramente vissute. E mi ricordo bene un momento di ilarità nella brutta guerra che è stata, quando il mio zio, che aveva una balbuzie molto forte, durante un attacco sono morti quasi tutti i suoi compagni della compagnia, e il suo capitano gli dice: tu Angelo adesso diventi caporale. E lui con la sua balbuzia diceva: che capitano, che cosa posso fare io, se devo dire di fare fuoco ci ammazzano tutti prima. Ed era stato messo, diciamo, agli arresti per 2 giorni e poi è stato richiamato comunque al fronte ancora. E quello ci faceva ridere nella complessità e nell'assurdità di questa guerra. E il mio nonno mi ha ricordato proprio lei, quando ho anticipato all'inizio della puntata, che aveva paura di andare al bagno per paura che qualcuno sparasse e morisse veramente anche lui con i pantaloni calati. E questa è la cosa che più ci colpì a noi nipotini. Il nonno c'è questa cosa qua, dice: io ogni tanto faccio qualche puzza perché mi sono dovuto trattenere per anni di andare al bagno, e con questo si giustificava. Esatto, esattamente. E io penso che non bisogna mai dimenticarle queste guerre. Grazie Silvana. Fernanda, buongiorno Fernanda. Fernanda? Sì, buongiorno dottor Nicoletti. Lei è un padre del 98. Io ho un padre del 98, che purtroppo è morto da tantissimi anni, non ha fatto in tempo neanche di invecchiare. Era un uomo buono, schivo, parlava poco della guerra, però quello che ci diceva era che quando è stato richiamato la sua paura era quella che la battaglia sul Piave lui non sapeva nuotare, e dice: come potrei salvarmi lui? E poi un altro episodio che... abbastanza toccante, è che un ufficiale ha punito un militare semplice per una cosa che effettivamente il militare non ne aveva colpa. Mio padre ha assistito a questa scena, e lui, che lo ammette, si era talmente arrabbiato che prese la gavetta e la scagliò contro l'ufficiale. Fu punito e mandato in prima linea a 18 anni a tagliare i reticolati. Dice che mentre li tagliava sentiva tutti i fischi delle pallottole, dei militari, delle attrici che gli passavano vicino alle orecchie. E come ne è uscito? Dice: c'è stato un santo protettore, senz'altro. Grazie signora. Marco Pizzo, una battuta, poi siamo in conclusione. Questo senso di normalità, di ritorno alla normalità, e il racconto tragico della guerra, dell'eroismo, dell'aver subito comunque il desiderio di eroismo altrui, sembra quasi qualcosa di impalpabile, che appartiene al romanzo, non appartiene alla realtà, ma quella era una realtà. Era una realtà, ma era comunque stato un trauma esistenziale, e il fatto di aver condiviso questo trauma esistenziale, che era la guerra, con morti, con un sentimento proprio di immanenza continua della perdita della vita, aveva cambiato la percezione dell'esistenza. Tant'è che quando si arriva al primo dopoguerra, nel 19, la realtà è diversa, perché sono gli uomini che sono diversi. I reduci della Grande Guerra non sono più gli uomini dell'Ottocento. Sono uomini che hanno un diverso senso della cosa e della realtà. Grazie Marco Pizzo, grazie a tutti gli ascoltatori. Questa mattina si sono prestati a essere testimonianze biologiche di qualcosa che forse si ricorda sempre di meno. A domani.